Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Piano piano ha incominciato a fare progressi. Piccoli voli di metro in metro. Una sera il volo si è prolungato un po' di più e l'uccellino è andato a finire nel prato vicino. Non mi è stato possibile riprenderlo. Ero terrorizzata. Me lo immaginavo alla mercé di qualche gatto di passaggio. E non avevo modo di intervenire. Ma forse era arrivato il momento di staccarmi da lui. Mi chiamo Grazia Zampieri, ho 64 anni, sono in pensione da qualche anno, facevo l'impiegata, lavoravo come impiegata amministrativa in una grande azienda. Vivo a Verona in città, ma ho la fortuna di poter passare l'estate nella casa di campagna per il ritardo dei miei nonni materni. Avendo cominciato più o meno a aprile dell'anno scorso, quasi un anno che vi chiediamo di scrivere le storie, però io e Tiziano e parte della redazione abbiamo cominciato a leggere le storie che ci mandate a voi siete qui, @radio24.it, più o meno a maggio-giugno dell'anno scorso. Ci siamo creati ciascuno un metodo, no? E il metodo è semplicemente appunto leggere, capire dove va la storia, che cosa racconta, se è già stata raccontata, se quella persona magari ci ha già mandato un racconto e quindi non possiamo mandarla in onda due, non in questa stagione perlomeno. Io ho sviluppato un metodo che è proprio legato al segno che quella storia mi lascia da qualche parte, anche solo nella memoria. Per cui è chiaro, ve la ricordate la storia di quel ragazzo che perde la gamba in un incidente e dopo anni combatte contro l'amputazione dell'arto e diventa un olimpionico e va ad Atene e Pechino? Quella storia lì è una storia che ti lascia un segno talmente forte che quando l'hai letta poi hai voglia di raccontarla alle persone di fianco, no? Cioè la racconti alla tua fidanzata, la racconti, chiami Tiziano, glielo dici, ma l'hai letta quella storia e subito ti immagini come verrà la puntata. E poi ci sono delle storie che sono molto leggere, hanno un grande garbo e ti regalano proprio una sensazione quasi di benessere, non capisci da dove arrivi, però è una sensazione diversa dalle altre e quindi magari la leggi, la metti da una parte, poi la riprendi dopo un'oretta o il giorno dopo o la settimana dopo, la rileggi e capisci che di fatto c'è una sua grazia in quella storia. È esattamente la storia di oggi, la storia che ci ha scritto Grazia, per l'appunto, scusatemi l'orribile gioco di parole, e che racconta di un piccolo animale che lei accudisce e che poi semplicemente se ne va. Prima di andarsene però quell'animale fa un piccolo gesto che nella sua testa, e devo dire la verità, anche nella mia testa, quella di Grazia, ci piace immaginare che sia un gesto di riconoscenza. Adesso vi leggerò la storia e capirete di cosa parlo. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa storia e questo è il motivo per cui oggi parliamo di riconoscenza. E questo è anche un po' il motivo, perdonatemi, per cui noi scegliamo storie molto diverse, proprio perché lasciano segni molto forti o segni più garbati, però in qualche modo raccontano qualcosa di quella persona e in fondo anche di noi. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma è Matteo Caccia, io sono qui. C'è anche una mail che è quella a cui ci mandate i racconti, ma vale scrivere anche in diretta. Voi siete qui, @radio24.it. Oggi si parla di riconoscenza. La domanda semplice che abbiamo posto questa mattina su Facebook era: che cos'è per voi la riconoscenza? Che cosa significa provare gratitudine o riconoscenza nei confronti di qualcuno? E chiaramente ognuno dà la risposta che gli si avvicina di più. Giovanni mi dice: se esistesse te lo direi. C'è del pessimismo cosmico qui. Mariangela: ammettere che non bastiamo a noi stessi. Marzia: è quando qualcuno si accorge delle piccole cose che facciamo per lui o per lei senza bisogno di farglielo notare. Arianna ancora: ricordarsi di chi c'era quando non c'era. Aspetta un attimo. Cosa vuol dire ricordarsi di... L'avevo letta così, come se fosse una bella frase, poi ho detto ricordarsi di chi c'era quando non c'era. No, secondo me qua ho fatto un copia e incolla sbagliato. Secondo me qua, se non ricordo male, è ricordarsi di chi c'era quando non c'era nessuno o quando c'era poca gente. Arianna, riscrivicela, 349-238-6666. Devo ringraziare però in particolar modo Alessia, che mi ha fatto notare su Facebook un articolo di oggi che è proprio perfetto, sul Corriere della Sera. Parla di Philip Dick. Philip Dick è l'autore fantascientifico più famoso che esista. Quando cominciava a scrivere, non scriveva proprio di fantascienza e scriveva dei romanzi che avevano però come perno una sua forma di pessimismo, che anche in questo caso definirei cosmico o comico, non lo so. Insomma, la storia esce un romanzo, che è un romanzo appunto della gioventù, si chiama Lo stravagante mondo di Mr. Ferguson. Racconta di due tizi americani. Non è questa la cosa interessante. La storia interessante è che quello che dice l'articolo è il nocciolo duro dell'ispirazione di Philip Dick è che quando il protagonista, messo di fronte alla bontà dell'altro e alle sue proposte di redenzione, invece di esprimere gratitudine, esclama "mi hanno incastrato", lì riconosciamo il leitmotiv amaro di tutte le opere di Dick. I paranoici, che è questo qua, i paranoici non sono dei matti, sono piuttosto dei sensitivi che colgono la profonda essenza maligna di tutte le relazioni umane, anche quelle animate dalle migliori intenzioni, in quanto irrimediabilmente avvelenate dall'inautenticità del mondo in cui siamo condannati a vivere. Questo è pessimismo puro, ma questo soprattutto è non credere nella riconoscenza. Non so quanti di voi ci credano, se avete voglia 349-238-6666, Grazia sicuramente ci crede. Quando sono in pensione ho la fortuna di poter passare l'estate nella vecchia cascina di campagna lasciata dai miei nonni materni. Lo scorso anno mi è successa una cosa che mi ha commossa. Come in tante case del genere, le zone sotto il tetto sono usate da passerotti e rondini come rifugio per costruirci dei nidi. E così era successo. Una nidiata di uccellini urlanti era nata proprio vicino alla mia finestra. La cosa non mi dava fastidio, anzi mi teneva compagnia. Però, come capita spesso, di tanti piccoli qualcuno fa una stupidata. Uno di loro, forse sporgendosi troppo durante la richiesta del cibo, è caduto. La casa non è molto alta, nel cortile c'è un prato, quindi non si è fatto male. Ma era piccolo piccolo e non sapeva ancora volare. Sono scesa e l'ho visto lì, un po' spaesato. Mi spiaceva, non sapevo cosa fare. Gli ho fatto un po' di carezze e l'ho messo in una cassetta aperta, sperando che la sua mamma lo vedesse. C'è molto da fare perché ho tante piante, piante da frutto, quindi bisogna darle da bere, bisogna curarle, bisogna raccoglierle. E poi ho tantissime viti, ho un centinaio di viti. Io tra l'altro sono una femmina, quindi sono solo due che poi regalo. Ma le viti sono molto impegnative. Io lo so che la natura non è tanto generosa con i più deboli e che le mamme devono occuparsi di chi ha speranza di vivere e non possono star dietro a tutti. Ma stavolta sembrava andare tutto per il meglio perché lei si è accorta del suo cucciolo caduto. E dapprima molto guardinga per la mia presenza, poi con meno timore ha incominciato a nutrirlo regolarmente, come fosse ancora nel nido. Rimaneva un problema però. L'uccellino doveva imparare a volare e sua mamma non avrebbe certo avuto la forza di sollevarlo. Allora, poiché si era abituato anche a me, ho incominciato a prenderlo in mano e lanciarlo delicatamente in aria e poi riprenderlo, ovviamente, per fargli aprire le ali. Ero metodica, ma anche un po' spaventata. La cosa è andata avanti per circa un mese. Sulle prime si attaccava con le zampette alla mano per paura di cadere. Poi però ha incominciato a lasciarsi lanciare in aria e farsi riprendere. Piano piano ha incominciato a fare progressi e dei piccoli voli di metro in metro. Una sera il volo si è prolungato un po' e l'uccellino è andato a finire nel prato vicino, che aveva l'erba alta. Non mi è stato possibile riprenderlo. Ero terrorizzata, perché me lo immaginavo alla mercé di qualche gatto di passaggio e non avevo modo di intervenire. Forse però era arrivato il momento di staccarmi da lui. No, io non sono tanto apprensiva, solo che è stata una cosa, perché questo uccellino appunto era proprio indifeso, piccolino, e almeno io credevo che quando si toccano gli uccellini poi le mamme o i genitori non li riconoscono, almeno questo io avevo sentito dire. Ho passato alcuni giorni pensando solo a come poteva essere finita la storia dell'uccellino a cui stavo insegnando a volare, finché una domenica, verso mezzogiorno, ho sentito davanti alla cucina un gran batter d'ali, un suono del tutto inusuale. Sono uscita e c'era il mio uccellino sul davanzale della finestra e anche la sua mamma, che volava a girandola come per richiamare l'attenzione. Ho preso in mano il piccolo e gli ho fatto ancora qualche coccola. Lui è rimasto un po', poi ha preso il volo e non è più tornato. Io non sono un'etologa, ma sono certa che si trattasse di riconoscenza, sia sua che della mamma. O non lo so, forse sono io che sono molto romantica. Non mi importa. Qualsiasi cosa fosse, mi ha fatto stare bene. She's a primitive girl, she says it herself. She cuts to the chase, you're like nobody else. If you say how you doing, she'll say I'm doing well. She's a primitive girl, she says it herself. Nicola Di Grazia è stata una storia molto leggera e molto commovente. È un po' l'ho invidiata, avrei voluto trovarmici un po' io a insegnare a volare a un uccello. Però non mi è mai successo. A me la natura ha sempre proposto gatti che mi portavano a casa piccioni agonizzanti, come fossero dei trofei, o altre storie non esattamente a lieto fine. Il che mi ha consentito di avere una visione del mondo che non è proprio leopardiana, ma che, insomma, non è sempre tutta rose e fiori. Però, come vi dicevo, è stata la questione della riconoscenza che mi ha incuriosito. Chissà quanto dura, ad esempio. Cioè, per quanto tempo ci si ricorda di qualcuno che ti ha fatto un favore o ti è stato di supporto in qualche momento importante della tua vita? Perché il tempo, no? Lo dicono tutti, ripara le ferite e cancella le delusioni, ma a volte però fa piazza pulita anche dei sentimenti più edificanti. L'uccellino e sua mamma sono stati riconoscenti, e va benissimo, perlomeno a Grazia è sembrato così. Ma non succede sempre in questo modo, e ci sono mille altre variabili complicate. Vi faccio un esempio che sembra non c'entrare, eppure c'entra. Vi ho già parlato di Giulio. Giulio era un mio ex coinquilino ai tempi dell'università. Lui, per riconoscenza, e uso le sue parole, aveva deciso di cominciare a fare del volontariato. Non so esattamente nei confronti di chi o nei confronti di cosa fosse quella riconoscenza, però voleva fare del volontariato. Aveva deciso di darsi all'aiuto dei senza tetto perché diceva che la vita a lui aveva dato troppo e qualcosa doveva fare per ricambiare. E non so dire se si tratti di una motivazione nobile o una maniera per perdonarsi qualche senso di colpa. Insomma, lui ne era entusiasta. Tornava a casa sporco del cibo che aveva distribuito e con un sorriso enorme in quei giorni lì, quando si dedicava alla mensa per i poveri. Il resto della settimana invece lo passava in giro per locali oppure al cinema. I weekend invece era sempre in volo per una città europea d'inverno o un luogo di mare d'estate. Insomma, c'è stato per un paio d'anni in quella condizione Giulio. Poi pian piano si vedeva che andarci gli procurava più fastidio che piacere. E allora ho pensato che, magari era il caso di chiedergli come andava. E lui era diventato ostile e aveva paura che lo prendessi pure in giro. Però io ero veramente curioso di capire come mai si fosse incupito. E lui mi ha raccontato che un giorno uno di quei senza tetto, una di quelle persone a cui lui dava da mangiare, gli aveva detto che poteva anche fare a meno di andare a lavarsi la coscienza distribuendo pasti ai poveri. Che poteva fare di più e che se si aspettava che anche loro lo ringraziassero, poteva star fresco. E allora si era accorto che non era per riconoscenza verso il mondo che era andato a fare il volontariato, ma per ottenere la riconoscenza degli altri, che è ben altra cosa, e che gli faceva un po' ribrezzo pensare di essere in quel modo lì. Aveva come aperto gli occhi. E mi pare che avesse proprio usato queste parole. Le persone lo fanno solo per un bisogno personale, per sentirsi riconosciuti, appunto, e ringraziati. E che, aggiunse, in uno stato civile il volontariato e la beneficenza non dovrebbero esistere. Giulio era talmente arrabbiato con la società dove viveva e dove vive tuttora e così deluso da se stesso che mollò il volontariato e decise di cominciare a fumare. Che gli faceva schifo, disse, ma almeno nessuno avrebbe potuto dire che era bravo e buono. Durante gli studi ho cambiato casa un paio di volte e l'ho un po' perso di vista, ma ho saputo che sta bene. So che ha smesso di fumare e ha sposato una ragazza conosciuta in una ONG. Ed è felice. Evidentemente qualche modo per mettere a posto la questione della riconoscenza, immagino e spero, Giulio, lo abbia trovato. Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. La riconoscenza è volere bene oggi per essere stati voluti bene ieri. Gianni da Campobasso. A 18 anni scoprì che la mia fidanzata, ormai ex fidanzata, mi scrive, si drogava. Grazie a Veronica e Silvia la salvai. Sono passati 21 anni e la mia gratitudine è ancora intatta. Gianluca da Milano. E poi non so chi mi scrive: io vi sono riconoscente perché dalle 4 alle 5 mi passa il tempo, per così poco, mi sembra davvero, davvero pochissimo, ma ti ringrazio. Sandro, faccio ancora in tempo a mandare il mio racconto? Sandro, ma hai tutto il tempo del mondo, voi siete qui, @radio24.it. Ma torniamo al racconto di oggi, che è quello che ci ha dato modo di riflettere su questa questione della riconoscenza e anche su questa cosa che ho ricercato Giulio quando ho letto il racconto di Grazia. notizie, volevo sentirlo, perché mi ricordavo proprio questa questione. Noi avevamo una discussione proprio una sera a proposito di questa questione, che lui diceva in uno stato civile la beneficenza non dovrebbe esistere. È una chiave di lettura, è una chiave di lettura. Avrei voluto sentirlo e magari chiamarlo anche in diretta, ma deve aver cambiato numero. Andiamo a Grazia direttamente. Pronto, Grazia? Sì, ciao Matteo. Ciao, ciao. Come stai? Benino, grazie. E tu? Bene, bene, benone. Senti, sei a Verona o sei in campagna? Sì, sono ancora in città, ma dopo Pasqua mi trasferisco in campagna. Cioè, tu ti trasferisci proprio... Sì, anche perché è vicino, in mezz'oretta ci sono, è alle porte di Verona, non è molto lontano. Come si chiama comodo. Il paese? Ma guarda, è vicino a... Ma è proprio la città praticamente, è tra Verona città e l'aeroporto, quindi okay, okay. È a 5 km da Verona praticamente. Scusami? È vicinissimo, dimmi. Non ho capito il nome, ma... Ah, 5 km da Verona, perfetto. Ma ci vai da sola? Ci vai da sola, Grazia? Oh. No, con mio compagno. Senti, a questo proposito, il tuo compagno, quando tu gli hai detto questo uccellino è venuto a ringraziarmi, che espressione ha avuto? Cosa ha detto? Ma guarda, eravamo insieme perché anche lui lo accudiva, io lo facevo volare e lo coccolavo e lui gli prendeva gli insetti, le mosche, le li dava e quindi mi ha aiutato anche lui, non è stato tutto marito mio. Cioè, quindi di fatto siete stati due genitori per questo passerotto. Guarda, uccellino. Praticamente sì. Senti, hai avuto altri animali tu nella vita o no? No, perché vivendo in città non ne ho, ecco, non mi sembra di sacrificarli, quindi non ne ho. Però lì in campagna, guarda, è una meraviglia, perché ci sono le rondini lì, ci sono i passerotti che vengono, se gli dai due briciole vengono alla porta, chiedatene ancora. Guarda, Grazia, mi stai simpaticissima perché mi ricordi, ma veramente mi ricordi tantissimo mia madre. Mio padre è inferocito perché sul balcone di casa mia, del paese dove i miei genitori abitano, ci sono briciole 24 ore al giorno perché mia mamma sostiene che lì ci vadano gli uccellini, e Margherita dice che anche a casa sua succede. Per Natale le ho regalato una cassetta, una casetta, quelle in cui ci vanno gli uccellini, che ovviamente le snobbano, e quindi poi è anche l'età di mia mamma e quindi mi sembra di parlare con mia madre, per cui voglio andare via da lì. Raccontami invece quando dici che eri quasi terrorizzata nel lanciare sto uccellino, perché non capita tutti i giorni, no, di far volare un animale. Ma infatti, anche perché appunto lui era, a parte che era piccolissimo, guarda, io non so che specie sia, perché sembrava, non ti so dire, lui si attaccava con le zampette al mio braccio, non voleva staccarsi, quindi io avevo anche paura di fargli male, poi non sapevo se era il modo giusto, ma dico, qua bisogna farlo volare, come si fa, certo, no, poverino, certo. E quindi lo lanciavo piano piano, sempre le mani, lo lanciavo piano piano, poi lo volavo proprio 10 volte. Senti, scusa, grazie, cosa hai fatto nella vita prima di andare in pensione? Lavoravo con impiegata in una grande azienda. Ma sei mia mamma, Grazia. Di che colore? Non ci hai mandato la foto perché non sai usare il computer, mi diceva. No, infatti. Di che colore hai i capelli? Come sei fatta? Sei lei? Ma sono piccola, piccolina, gli occhiali, i capelli, me li tingo, ma sono castani, gli occhi marroni. Senti, Grazia, io ti ringrazio moltissimo per il racconto e la chiacchierata. Grazie e ti auguro te, buona fortuna per tutto. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Spero che mia mamma non se la sia presa, però sono sicuro che condivideva pienamente quello che diceva Grazia. La riconoscenza vuol dire che a volte ci si accorge di qualcuno a cui vogliamo bene solo quando non c'è più. Daniele. Voi siete qui. E smuovono due tipi di messaggi e di sentimenti le storie come quelle che ha raccontato Grazia. Una è quella su cui noi abbiamo puntato la puntata, perdonatemi, oggi ho solo orribili giochi di parole, ma giuro che non le faccio apposta, che è quella della riconoscenza. L'altro invece è quella delle persone che hanno avuto un'esperienza simile a quella di Grazia, tra cui mia mamma, perché sicuramente non sta ascoltando il programma, altrimenti un SMS l'avrebbe mandato sicuramente, l'ha mandato adesso. Bene, mi dicono che l'ha mandato adesso mi legge. Non posso leggere un messaggio di mia madre così in diretta, dai, no, non vale, non va. Allora, è successo anche a me, scrive Cristina. 3 mesi di lezioni di volo, Poi il varo all'esterno. Sentivo il suo canto e quando ho gridato "ti sento ma non ti vedo" mi è volato sulla spalla. San Francesco di fronte a Cristina era nessuno. Aspetta, aggiunge anche: mia figlia presente è quasi svenuta dall'emozione e io pure. Gli animali ci parlano in qualche modo. A Alex: spesso ripenso a un albatros che trovammo sugli scogli in ferie in Calabria. Sembra che fosse in ferie. Scusate, però detto così sembra che l'albatros fosse in ferie in Calabria. Ho già caldo. Alla rotta e mi vengono in mente le ore per cercare un veterinario. Capivo a 12 anni quanto un animale può darti una sorta di riconoscenza nello spirito e quanto io gli ero grato. Si chiamava Polly. Ciao Alex. Beh, Alex, immagino che gliel'abbia dato tu il nome Polly e non che si chiamasse lui Polly e che fosse in vacanza in Calabria. E poi Giulio è il miglior di tutti. Giulio: io ho fatto da genitore a una papera orfana al lago di Garda, finché un giorno presi un gommone e la lasciai in una baia insieme ad altre 4. E qui la storia sembrerebbe finita, e invece no. Dopo 4 giorni ritornò a casa. Giulio, facci sapere che fine ha fatto. Perdonatemi, con massimo rispetto, non mi faccia solo ridere il gioco di parole dell'albatros, figuriamoci. E poi ancora, torniamo alla riconoscenza. Torniamo in noi. Riconoscenza è riconoscersi nell'altro. L'unica vera riconoscenza si ha quando ci aiuta a vedere che non siamo speciali e siamo parte del tutto. Adriano da Roma, che è un bel modo per dire anche semplicemente di abbassare le proprie aspettative, però abbassare il livello di presunzione, no? Per cui effettivamente anche quando sembra che tutto vada storto, forse semplicemente una parte e non dipende tutto da noi, o il contrario, quando tutto va bene. Tant'è, è arrivata però tra le varie mail riguardo alla riconoscenza, che sono per lo più che hanno tutte un sapore di positività. Ad esempio Oscar scrive: la riconoscenza per me è quella che devo a un chirurgo che risolse definitivamente una grave malformazione nell'organismo di mia figlia e fece tutto gratis. Ecco, più o meno il tenore è questo. È arrivata una mail invece che dire che è contro la riconoscenza è sbagliato, però in qualche modo deve la riconoscenza una parte non troppo positiva della sua vita, la persona che ha scritto questo messaggio. Ringrazio quella persona per averlo scritto. Quella persona si chiama Andrea e la sua mail è questa qui. Mio padre lavorava alla Same, quella che fa i trattori. Mia madre faceva orli e rammendi a tutto il paese. Io ero l'unico figlio e non ho mai dato problemi, anzi, a scuola ero il più bravo e nelle partite di calcio un fuoriclasse. Avevo 13 anni e un sogno: scrivere e disegnare io i topolini. Farli muovere, farli parlare, farli cadere e poi salvarli. Li prendevo in biblioteca, i topolini, e poi li riportavo il giorno dopo, il giorno in cui scadeva il prestito, perché li volevo tenere il più possibile. Insomma, il mio sogno era quello di diventare un fumettista. I miei genitori per me ne avevano un altro di sogno. Il loro unico figlio, sempre primo della classe, avrebbe studiato e sarebbe potuto diventare addirittura un medico. Per farmi studiare fecero enormi sacrifici. Non chiedevano niente per loro, mai. La loro gioia era potermi dare la possibilità di studiare per anni, tanti anni, tutti quelli che servivano, senza sporcarmi le mani, senza essere costretto a guadagnarmi 2 lire facendo lavori umili, noiosi, faticosi. Così la gente, mi dicevano, mi avrebbe guardato in un altro modo, mi avrebbero rispettato davvero. Quando raccontavano di me agli altri, di quanto ero bravo, di quanto studiavo, che se continuavo così avrei potuto addirittura fare medicina e diventare dottore, si sentivano così orgogliosi e io con loro ero semplicemente felice a vederli felici, mentre si nutrivano di quel sogno che 10 anni fa diventò realtà. Mi chiamo Andrea, lavoro come anestesista e ho una bella macchina, una casa tutta mia, con un mutuo che mi potrò tranquillamente pagare per i prossimi 30 anni, e sono un uomo triste, perché il mio sogno non ho nemmeno provato a realizzarlo. Il mio sogno non ho mai nemmeno detto che era mio. Ho amato con tutto il cuore i miei genitori che ora non ci sono più, ma la riconoscenza mi ha reso un uomo infelice. Andrea. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving, not arriving. On our way back home. vedi, non tutti sono d'accordo, no, sulla totale positività della riconoscenza. La riconoscenza è l'aspettativa di benefici futuri, quando in teoria, no, la riconoscenza dovrebbe essere gratuita. Se fai del bene, impara a fartelo perdonare. Chiara da Trieste. Non l'ho capita questa, vero? O il T9 ha fatto dei danni, oppure non so cosa voglia dire. E poi Alessandro, a 25 anni, dopo un mese in ospedale per una complicazione, dopo essere stato accudito dagli infermieri, ho deciso di essere riconoscente a tutti quelli che hanno bisogno, e da 18 anni dono il sangue. Alessandro, 349-238-6666. Poi Chiara mi scrive: ti saremo riconoscenti se verrai con il tour a Ferrara. Allora, torniamo alla questione del tour. Ci è scoppiata tra le mani questa cosa, perché aveva ragione Tiziano Bonini: diciamo le cose quando sappiamo dove andiamo. E invece noi, presi così da un attimo di esuberanza e di entusiasmo, che peraltro non alberga in questa redazione, l'entusiasmo è proprio giusto. Se voi venite e vedete me, Tiziano Bonini e Margherita Ina che lavorano, proprio l'entusiasmo è l'ultima cosa che alberga nei nostri cuori. C'è sempre grande determinazione e grande attenzione al lavoro. Tant'è. Il tour accadrà. Quando accadrà? Accadrà probabilmente a metà maggio, probabilmente per una settimana intera, e probabilmente per le città del centro-nord. Non siamo sicuri di riuscire a venire al sud, perlomeno non quest'anno. La cosa che però vi chiedo, visto che è di fatto certo, è di cominciare anche per quelli che hanno già scritto delle storie, perché come vi dicevo, in questa stagione abbiamo cercato di scrivere, di raccontare ogni giorno la storia di una persona diversa. Per il tour andiamo in giro per raccogliere storie nuove, per averle direttamente dalle vostre mani, e vale anche chi la storia l'ha già scritta. Se avete un altro episodio che ci volete raccontare, o se semplicemente non l'avete fatto e non avete ancora trovato l'occasione per farlo e lo volete fare, o voi siete qui @radio24.it, o aspettate le date del tour e veniamo a prendercele noi. 349-238-6666, voi siete qui @radio24.it. Se volete riascoltarvi le trasmissioni, andate sul podcast del programma, che trovate la voce podcast del sito di Radio 24, o altrimenti andate su iTunes e ve lo scaricate con un abbonamento gratuito. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Stefano D'Andrea, a Roberto Scaltritti e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Grazia, parlava di riconoscenza. Quella di domani è la storia di Andrea e parla della parte selvaggia di ognuno di noi. Il giardino è quasi completamente ricoperto da foglie, di tutti i colori autunnali e di tante forme. Io sto parlando con un altro genitore quando i due piccoli di 6 e 5 anni vanno a strappare le foglie di mano alle bimbe. Intervengo e faccio la parte del papà. Eh no, non si fa così. Voi raccogliete le foglie da questa parte del vialetto, mentre le altre foglie sono per le bimbe. Così facendo, mi sembra di aver messo ordine. E invece no.